Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey e da Priscilla. Ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che in questa puntata ha, diciamo, un doppio appuntamento con i libri. Tramite un libro entreremo all'interno di altri libri e all'interno di una biografia di uno scrittore che ci racconta un passaggio storico. L'ho fatta più complessa di quello che in realtà è. In questa puntata parleremo di Nuto Revelli, una voce della scrittura italiana, una voce di un certo modo di fare storia, o meglio, un certo modo di raccontare la memoria, che in un certo senso può anche essere un modo di fare storia, ma Nuto Revelli è stato anche un protagonista della storia, in tutti i sensi. Nato nel 1914, scomparso nel 2004, restando sempre legato al Piemonte che gli diede i natali, Nuto Revelli è stato un militare, un ufficiale della campagna di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è stato anche un importante comandante partigiano del Piemonte dopo l'8 settembre del 1943. Perché? Perché lo vedremo fra poco, e tornò dalla Russia con l'idea che i tedeschi oramai non potevano essere più degli alleati, per quanto lui ne potesse essere convinto alla partenza, ma erano dei nemici che avevano trattato gli italiani, i soldati italiani, come della carne da macello. E grazie al fatto di essere stato un ufficiale della Seconda Guerra Mondiale e poi di essere stato un comandante partigiano, ha avuto la possibilità di entrare in contatto con quello che lui stesso definisce il mondo dei vinti, ovvero sia quelle tante persone che subiscono il fluire degli eventi storici, magari ne prendono parte come dei semplici soldati di leva, ma ne risultano un po' schiacciate. Questo naturalmente è una definizione che ha un po' del manzoniano, però cerchiamo di prendere quello che c'è di utile. Prima di entrare all'interno della biografia di Nuto Revelli ci ascoltiamo una canzone. Forse l'abbiamo già messo qualcosina, però secondo me in questa puntata qualche pezzo di Murubutu, come quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, ci serve proprio per entrare nel racconto di una vita che ha attraversato la guerra. Buon ascolto. Andiamo in musica. Le stesse pietre, lo stesso sangue. Le stesse pietre, lo stesso sangue. Partì al mattino sul viso, nessun sorriso, nessun avviso, nessun rinvio, e l'improvviso, l'addio al suo nido, il fronte voleva forza, rinforzi pronti, dove il conflitto è vivo, la fronte sugli occhi smorti di chi è in arrivo verso il confine. Così salì su un treno stanco, che intanto iniziò a marciare, il volto franco, ancora calmo, caldo dei baci della madre, il corpo maschio saldo, ogni sobbalzo si lasciava andare, fuori il paesaggio in marzo declinava fino a indicare il mare, poi fuori a flussi e flutti, ogni vagone aprì la pancia via, soldati a truppi, a ciurme, vomitate in terra d'Albania, vedendo tante vite al fine, il cielo allineò le nubi a monito, vomito, vomito. Verso la linea del Golico, fra quei monti alti, lampi bianchi facevano già paura, erano gli ampi lanci fatti da altri dietro ogni radura, la montagna sappiando i fatti è solo roccia dura e pura, che porta morte i tanti fanti infranti e nega loro sepoltura. Le stesse pietre, lo stesso sangue. Le stesse pietre, lo stesso sangue. Quegli stessi piedi sulle stesse pietre, se non resti in piedi non rivedi papà pa, mamma. Le stesse pietre, lo stesso sangue. Le stesse pietre, lo stesso sangue. Quegli stessi piedi, quelle stesse gambe, sulle stesse pietre con lo stesso sangue. Per la prima volta Aldo vide quelle terre interne, vide granate come gemme splendere fra le contraere, sentì le saette, il vento flettere, le tende fra le vette, le vedette spegnersi come fiammelle di sete, freddo e febbre. Prima un bagliore, un suono, poi voli via per sempre. Le bocche di fuoco per un uomo morto sono scie eterne. Vidi la morte fra le tende, in cerca fra le carni aperte, tra pezzi d'ossa, pelli, belli, intrise, divise, grigio, verde. Un'altra alba baglia, scalda, cauta di un nuovo calore, la mitra calda, scalpita sopra ogni costone, ogni fossa che per tutti è solo pietra, fango, terra, cava per i soldati, un salto al salvo. Stiamo parlando di Nuto Revelli. Nuto Revelli, un scrittore, combattente, diciamo, partigiano, memoria delle montagne. Ecco, per raccontare la sua ricca vita, una vita, diciamo, densa, abbiamo contattato Giuseppe Mendicino, che è al telefono con noi. Salve Giuseppe. Salve. Allora, Giuseppe Mendicino è un esperto di letteratura di montagna, poi vedremo se a lui queste etichetta piace, che quest'anno ha pubblicato per la casa editrice Priuli e Berlucca la biografia di Nuto Revelle, che si intitola Nuto Revelle, vita, guerre, libri. Come dicevamo, Mendicino ha lavorato molto sulla letteratura di montagna e diciamo su quegli scrittori che la montagna hanno vissuto e hanno raccontato. Uno su tutti, naturalmente, Mario Rigoni Stern, a cui Mendicino ha dedicato il libro Il coraggio di dire no, edito da Einaudi. Entriamo adesso invece nel personaggio di Nuto Revelle e la vita, diciamo, il momento chiave della biografia di Revelle è naturalmente quello della campagna di Russia, la partecipazione alla gigantesca mobilitazione del corpo d'armata italiano in Russia, che finirà, come sappiamo, in un disastro. Da quel momento, questo è un momento chiave nella biografia di Nuto Revelle, naturalmente, e successivamente vedremo che sarà uno dei punti di partenza della sua opera di scrittore. Ci puoi raccontare intanto come si è costruito l'esperienza biografica di Nuto Revelle, che è partito come ufficiale convinto di vincere quella guerra ed è tornato invece in nuce, diciamo, un suo antifascismo? Cos'è cambiato in Russia? Nuto Revelle è partito per la Russia con l'idea di fare l'ufficiale, di farlo seriamente. Lui prendeva tutte le cose che faceva sul serio. E la disillusione arriva di fronte ai fatti, cioè non tanto per la sconfitta in sé, ma per le cose viste, vissute durante la guerra in Russia, durante la ritirata. Quindi da un lato la ferocia, la crudeltà dei tedeschi nei confronti della popolazione civile, ritenuta quasi dei subumani, ecco, e poi ma anche verso l'alleato italiano. Dall'altro però anche l'assurdità di una guerra di aggressione che non aveva senso. I momenti in cui comincia a capire sono proprio durante il viaggio con la tradotta verso la Russia, quando a alcune stazioni della Polonia e poi dell'Unione Sovietica vede questi ragazzi emaciati, donne mal vestite, picchiate, che puliscono le rotaie e hanno una stella gialla sul petto, e poi gli spiegano che sono ebrei. Quello è il primo momento. Poi durante la guerra vede le fosse comuni, le fucilazioni e capisce che sono in una guerra assurda. Nonostante tutto fa il suo dovere e lo fa anche bene, perché lui era uno di quegli ufficiali che guidano gli uomini più con l'autorevolezza che con l'autorità, quindi dava l'esempio. E non a caso si è meritato una decorazione sul campo, una medaglia d'argento, proprio nel settembre del 42. È uno di quelli, ecco, come diceva Rigoni Stern di Emilio Lussu, lui era un capitano vero, uno che ha tanta competenza, tanto lavoro alle spalle e sa guidare gli altri e dà l'esempio, perché per usare la parola capitano è una parola che va usata con molta attenzione, uno se la deve meritare sul serio. E non, i due in Russia si incrociano, Rigoni Stern e Revelle, senza incontrarsi mai. Rigoni racconta di aver sentito parlare di questo ufficiale duro ma giusto, e poi durante la ritirata nel gennaio del 43 entrambi si trovano in battaglioni operativi, quelli che ancora armati, che guidano questa immensa fiumana di soldati in gran parte disarmati, e li guidano verso la salvezza. 11 combattimenti, centinaia di chilometri di neve, di ghiaccio a temperature impossibili, e poi lo sfondamento della Tridentina nell'ultima battaglia, che è quella di Nikolaevsk. Quindi di fronte ai fatti sia Rigoni Stern sia Revelle si rendono conto della verità e della assurdità e crudeltà di quella guerra di aggressione. Sì, e questo effettivamente è un passaggio che nel suo libro, ricordiamo il titolo intanto, Nuto Revelle, vita, guerre, libri, emerge molto forte. Per l'appunto poi colpisce questo plurale, le guerre di Nuto, perché naturalmente c'è la Russia, ma poi dopo c'è la guerra in montagna, c'è la guerra partigiana, in cui Revelle riporta, diciamo, quel carattere che aveva dimostrato come ufficiale in Russia. Sì, durante la guerra si arriva all'8 settembre del 43 e lì hanno questi due ragazzi, perché erano giovanissimi, hanno due destini diversi. Rigoni Stern viene catturato nel Brennero, portato in Germania, gli viene posta la domanda: vuoi aderire alla Repubblica Sociale di Mussolini e combattere a fianco dell'alleato tedesco? E dice di no, e pagherà quel no con 20 mesi di prigionia nei Dager. Luto Revelli riesce a fuggire in montagna, fonda un primo gruppo di partigiani, già il titolo dà l'idea dello stato d'animo, Compagnia Rivendicazione Caduti. Cioè l'idea in quel momento è una ribellione alla crudeltà dei tedeschi, una voglia di liberare l'Italia dai tedeschi. Non è un caso che questa crudeltà non l'ha vista solo in guerra, l'ha vista anche lì, proprio nel Cuneese, perché la prima strage nazista in Italia avviene a Boves nel settembre del 43, 25 civili assassinati, di cui due, il parroco e un notabile locale, vengono arsi vivi. L'altro tema è la liberazione dalla dittatura, da questa dittatura retorica, fasulla, di carta testa, che aveva mandato migliaia di ragazzi in una guerra improvvisata con un armamentario, un vestiario assolutamente... C'è una dittatura fatta di retorica e però pericolosissima, come abbiamo visto con le leggi razziali e con le guerre che ha scatenato. E quindi va in montagna con queste due idee, quindi una rabbia dentro molto forte, però non c'è ancora un'idea del futuro, cioè lottare contro più che per qualcosa. In montagna conosce Dante di Vio Bianco, che invece era pienamente un avvocato di Cuneo, che ben dentro le idee e la filosofia di giustizia e libertà che questo gruppo antifascista ha fondato in Francia dai fratelli Rosselli e da Emilio Luscio, e gli parla appunto di questo comandante della Grande Guerra, Emilio Luscio, appunto un uomo che ha delle analogie con Revelli, perché appunto guida con l'autorevolezza, sa fare, sa comandare e ha cura della, non manda i suoi uomini allo sbaraglio. E poi dei fratelli Rosselli, fatti assassinare in Francia da Mussolini, a pugnalate da dei sicari francesi. Gli parla quindi di queste idee che vogliono mettere insieme la libertà individuale, tema fortissimo, e poi però anche la solidarietà sociale, quindi una libertà che si lega al senso di responsabilità, perché entrambi questi due amici avevano un grandissimo senso di responsabilità. Rigoni Stern fino alla fine della sua vita dirà: io la cosa più bella e importante che ho fatto in vita mia è stato salvare i 70 uomini del mio plotone, portarli dal Don fino alle retrovie in salvo senza perderne, senza lasciarne indietro neanche uno, e sentivo fortissimo questo senso di responsabilità. Analoga senso di responsabilità per Revelli con i suoi uomini, lui mette a frutto le sue virtù militari lì nelle montagne del Cuneese e fa combattere la sua brigata benissimo, sarà un grande comandante almeno per un anno, poi ha un incidente gravissimo mentre corre con la moto per cercare di fare uno scambio di prigionieri con i tedeschi, vola fuori strada e il volto rimane completamente devastato, il naso sparisce, subisce 8 operazioni in Francia dove mancavano la penicillina, gli anestetici. E è una cosa terribile, agli occhi spostati, ho visto una foto terribile, un occhio più alto, uno più basso, il naso deforme, ricostruito con un pezzo di costola, gli estraggono una punta della costola, fanno il naso in quel modo, apposta quel naso lì che sembra una patata deforme, è perché ha patito tutte queste operazioni terribili. Nella guerra dei poveri, lui dove racconta nella prima parte la guerra in Russia, poi la guerra partigiana, a un certo punto dice nel suo diario: io non ne posso più, è un dolore insopportabile, era quasi ha pensato anche a farla finita. Riesce a recuperare, arriva a Cuneo nell'aprile del 45 e riesce a partecipare, a combattere per la liberazione della città. Sì. No, scusa l'interruzione. No, la cosa che colpisce, ecco, per l'appunto, il fatto che Nuto Revelli porti dentro di sé i segni di questo conflitto, li porti anche sul viso, e questo gli dà l'opportunità forse per entrare in quel mondo dei vinti di cui parleremo fra poco dopo una piccolo step musicale. Giunse il freddo fra le volte di una notte stellata, una roccia sventrata nel buio stentava, onda cupa sulla curva di una duna spezzata, e da qualcuno aspettava ed intanto pensava. Maledetta questa notte, la sua mano fredda, questa luna splende forte, vuole la mia testa. Adesso tocca a me, adesso tocca a me, l'aria cupa, acqua brucia sotto i colpi di Katyusha. Ma il cielo scura le nubi, con le sue fauci sfila la medi luce racchiuse nei campi glauchi. Fuma fumi dai buchi tra fulmini e lampi bianchi, sfondi dipinti a tratti, uomini vinti a traumi. Mangia luce sulle strade l'inverno, fra queste terre le cartucce ghiacciate all'interno delle giverne. Noi spettri nel corpo fra i resti dei colcos, e il cielo piange pece fra nebbia, macerie e cenere. Freddo nella testa, cottato con un'idea, lo schietto della mia destra col ghiaccio nella trachea. Qua vedetta di guerra, qui in terra di steppa, fermo sulla testa il quadrato di Cassiopea. Qua la notte niente il capo grida, io nascosto nella coltre guardo là, tra linea salta una, tra mina sotto una, tra fila, e alla fine di stanotte ti dirò chi sei. Qua la notte niente il capo grida, io nascosto nella coltre fino a là, ma prima prendo una, tra mira salta una, tra vita, e alla fine di stanotte ti dirò, chiederò chi sei. Sono solo dentro un bunker fermo in punta, da un mese per ore a guardare il buio che trapunta la neve, ieri un'altra vedetta è morta con tre buchi in testa, mentre stanno maturando i sambuchi nel suo paese. Qualtra sorte marcia al gelo, neve rossa, mille corpi sul terreno, schiena rotta, neve in bocca. Ne sento ancora all'ombra la voce nascosta che parla dei ricordi tra i suoi colli di marosti. Caro, dopo tutto questo tu riceverai i miei diari, anche solo questo è il metodo dove pianterai i gerani. Nascosti qua in 300 avamposto del nulla, sta folla trema al vento, è una foglia di betulla. Steppi di campo e neve tra pezzi di un panzer nero, con gli occhi intrecciati al buio fra tetti di fango e gelo. Qua proiettili a mantello che sferzano mezzi in ferro, qua pezzi di parabellum che spezzano i nervi al cielo. Qua la notte niente il capo grida, io nascosto nella coltre guardo là, tra linea salta una, tra mina sotto una, tra fila, e alla fine di stanotte ti dirò chi sei. Qua la notte niente il capo grida, io nascosto nella coltre fino a là, ma prima prendo una, tra mira salta una, tra vita, e alla fine di stanotte ti dirò, chiederò chi sei. Che è finito tutto, baciato dalla fortuna, ogni notte chiudo gli occhi e rivedo quella pianura, i corpi la notte buia, li tocco e gli chiedo scusa, e negli occhi di quei morti ritrovo la mia paura. Allora, siete sempre su Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e sono i 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Stiamo dedicando questa puntata a Nuto Rebelli, chiacchierando con Giuseppe Mendicino, autore di Nuto Rebelli, Vita, Guerra e Libri, edito nel 2019 da Priuli e Berlicca. Allora, ci eravamo fermati, Giuseppe Mendicino, al punto in cui avevamo raccontato di Nuto Rebelli e del fatto che porti addosso non solo dentro di sé i segni di questo conflitto, e questo gli dà per l'appunto, come si diceva, l'opportunità di entrare nel mondo dei vinti. Finita l'esperienza della guerra e della guerra partigiana, inizia a lavorare, fa il commerciante di ferro, però inizia anche a scrivere e pubblica nel 1946, mai tardi, il suo diario della ritirata di Russia, riprende le pagine del diario che aveva annotato man mano e quindi racconta la sua esperienza. Il libro esce con un piccolo editore, ma per circostanze incredibili arriva dopo pochi mesi a Rigoni Sterme, perché un partigiano di Revelli era di Asiago e lo porta a Rigoni. Quindi i destini si incrociano ancora, e secondo me nella stesura del sergente Rigoni è anche stato influenzato da questa narrativa incalzante di Nuto Rebelli. Dopo aver raccontato la sua guerra, Nuto sente il bisogno di far parlare chi non ha voce, perché dopo la guerra uscivano diari di generali, tutti autoassolutori, invece lui voleva far raccontare chi la guerra l'aveva vissuta veramente sul campo. E quindi raccoglie testimonianze, e da questo lavoro di raccolta tutti i soldati semplici, tranne un ufficiale, che è il secondo libro, potremmo dire il terzo, però La guerra dei poveri del 62 riprende mai tardi l'esperienza di Russia e la unisce la riscrive in modo narrativo e poi la unisce alla guerra partigiana. Il secondo, terzo libro, dipende dai punti di vista, è appunto La strada del Davai, fa parlare chi non ha voce. In che maniera costruisce, cioè proprio ha citato queste lettere che lui raccoglie nel libro, ne dà menzione per l'appunto. Cos'è la storia dal basso che racconta Nuto Revelli? È la storia vera, è quella di chi ha visto la guerra davvero, con le sue conseguenze, con il suo freddo, i suoi dolori, le cose criminali che avvengono durante i conflitti mondiali. E soprattutto dalle lettere, ecco, si legge proprio quello che provano quei ragazzi lontanissimi al fronte, ragazzi cresciuti magari in una borgata alpina e mandati a migliaia di chilometri di distanza in un paese totalmente sconosciuto, in una guerra che non aveva alcun senso. E raccogliendo queste lettere, le mette insieme nell'ultimo fronte, tra l'altro lui si accorge che si fermano tutte ai primi dicembre del 42, però la ritirata è di metà gennaio del 43, quindi manca qualcosa. E lì emerge anche una delle follie del nostro paese. Era uscita una legge nel 43, le famiglie dei ragazzi persi sul fronte, dispersi, avevano diritto a uno stipendio, però dovevano dimostrare che effettivamente il loro congiunto era al fronte. Quindi ci arriva alla cosa paradossale e terribile di uno Stato che manda i ragazzi in guerra e poi ne chiede prova della scomparsa di questi congiunti alla famiglia. Allora i carabinieri vengono mandati dal comando del distretto militare di Cuneo a tutte queste borgate di collina, di montagna, a chiedere l'ultima lettera ricevuta. Ora si può immaginare il dolore di queste famiglie che consegnano, esatto, l'ultima lettera, l'ultimo segnale di vita del loro figlio o fratello. E quindi sì, allora, quindi una perdita di una memoria, oltre che di assurdo. Nuto Revelli poi va al distretto e le chiede queste lettere, datemene che io le raccolgo. No, perché sono segreto militare. Però un collega che era rimasto lì in servizio gli dice: guarda, non ti preoccupare, Nuto, te le tengo d'occhio io, prima o poi te le daranno. Dopo un mese lo richiama e dice: guarda, sono andato in ferie, mi hanno mandato al macero. Allora una cosa... Sì, è nel libro da conto Giuseppe Mendicini. Sì, questo racconto delle lettere è pazzesco, poi lui alla fine le recupererà, ma consiglio di leggerla bene questa parte, ecco. Era un giorno come tanti della stagione d'autunno, ma tra i tanti altri questo era forse il più lungo. Un mattino d'inizio secolo, il ghiaccio azzurro, il sole scaldava timido i marciapiedi di Pietroburgo. Tizio guardava i topi morti e resti freschi, camminava pensoso lungo la prospettiva Nevsky. Sa come passavano al trotto senza avviso, un soffio gelido colpì il cappotto dal pavero liso. Sondolando valutava un'altra svolta a destra, un'altra porta aperta, qua la folla fretta per una morte certa, basta una botta netta in testa, poi sa appoggiava e valutava un'altra vodka secca, la sesta, e che gli resta in queste terre dell'est, giusto la musica che fugge dalle finestre. Voleva andare lontano, non sa dove né come, chino il capo, chiuse gli occhi e pensò ad essere altrove. Era un giorno come tanti della stagione d'autunno, aspettavamo l'inverno in mezzo a un caldo assurdo. Il sole a picco teneva trafitto il coscritto, tricea del fronte africano nel secondo conflitto. Tizio fissava zitto il suo destino trafitto, a 100 chilometri da Alessandria d'Egitto. Stringeva le garze bianche, si giocava le scarpe a carte, poi fumava stanco appoggiato al cingolo di un panzer. Nella noia tormentava con i sassi una lata, un'altra alba piatta passa su sta massa di sabbia. Basta del piombo una cassa per una morte classica, era solo la rabbia a spaccargli le labbra. E gli resta ormai queste terre del sud, ora più niente o niente più, più. Il deserto di sole fanno lo stesso rumore, fino al capo chiuse gli occhi e penso d'essere altrove. Era un giorno come tanti della stagione d'autunno. Qua, bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Città Fujiko, questo è sempre Vallun. Noi stavamo parlando con Giuseppe Mendicino, autore del libro su Nuto Revelli, appunto dal titolo Nuto Revelli, vita, guerre e libri, edito da Priuli e Verluca. Allora è uscito da poco questo libro, quindi ci piaceva lanciarlo, però volevamo ritornare un attimo con il caro Frey su alcuni elementi interessanti che sono emersi da questa intervista. perché in realtà, oltre alla biografia di un personaggio gigante come è Nuto Revelli e il segno che ha lasciato nella storia del Novecento e anche della Repubblica, non solo quella della guerra in Italia, sono alcuni elementi appunto che sono venuti fuori in questa intervista. Innanzitutto è emerso il fatto che la guerra di liberazione partigiana era una guerra patriottica. C'era un nemico che non era solo un nemico esterno, però, cioè non era solo l'occupante nazifascista, ok, ma era anche la Repubblica Sociale Italiana. Questo era un nemico sul territorio e italiano, tanto quanto i partigiani, quindi secondo me questo aspetto è davvero molto interessante, poi dell'intervista che abbiamo appena fatto. Sì, assolutamente, quello è molto interessante, molto bello anche ricordare, cioè, questa figura del nemico, che è un nemico che esiste in quel momento. Certo. E che pone dei giovani, come ricordava Giuseppe Di Mendicino, di fronte a delle scelte molto importanti. Nuto Revelli va in montagna, ricordava sempre Giuseppe Mendicino, Mario Rigoni Stern nel campo di prigionia, resta all'interno del campo di prigionia perché decide di non collaborare con i tedeschi né di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, quindi condannandosi alla dura vita dell'internato militare, ed è un momento di scelte, un nemico che pone di fronte a delle scelte. Sì, e di fronte a delle scelte che vengono da altrettanti italiani, quindi è una guerra civile che in realtà poi in un contesto come quello di oggi, che si dice gli italiani, prima gli italiani degli altri, insomma dobbiamo anche ricordare quali italiani, quali sono anche le nostre origini, qual è l'origine della Repubblica, della nostra libertà democratica. L'altro aspetto interessante invece che volevo far emergere, che è stato vagamente accennato, io credo anche volontariamente, perché è come se fosse un po' il retropensiero dell'interpretazione di Mendicino sull'operato, sull'agire, sulla vita di Nuto Revelli. L'aspetto interessante è quando Mendicino appunto sottolinea la mancanza di progetto di Nuto Revelli nella sua partecipazione alla guerra di resistenza. Questo secondo me non è un limite, perché appena appena l'ho sentito, mi è venuto in mente un saggio bellissimo di Hannah Arendt che si intitola Sulla rivoluzione. Lei in questo saggio sottolinea proprio come il processo di liberazione, che fa parte poi della resistenza, la resistenza e la liberazione sono appunto coincidono, è una forma di libertà negativa, ok? Cioè la liberazione stessa non coincide con la libertà, la contiene, ma non conduce, la liberazione non conduce necessariamente alla libertà. Quindi quando tu poi hai chiesto che progetti insomma di futuro avesse Nuto Revelli, in realtà Mendicino giustamente ha detto stava lottando per la liberazione, però appunto il suo progetto di futuro in realtà era già in azione, in essere, in divenire, anche se appunto non sapeva quali sarebbero stati gli esiti. Sì, quindi cioè, è una delle maniere con cui viene raccontato questo passaggio, che è un momento secondo me molto bello, ed è molto bello anche il fatto che questo Giuseppe Mendicino l'ha messo in luce, si siano incontrate nello stesso tempo, nello stesso luogo, delle visioni diverse, personaggi diversi. Quindi avevamo visto, lui aveva citato Mario Rigoni Stern, ma ci possono citare tante altre voci di quella di quel Piemonte e di quel nord Italia che ha vissuto il periodo fra il 43 e il 45, che troviamo in tanta nostra letteratura. E un altro che Mendicino cita in alcuni dei suoi articoli è Primo Levi, quindi un'altra faccia dell'esperienza del 43-45, che però racconta un ritorno a casa successivamente e un incontro con questo mondo che è un divenire, fra virgolette, cioè un momento di liberazione che deve dare adito alla libertà, come diceva Priscilla, che può essere letto in tante maniere. Per cui questo secondo me è un aspetto che è molto bello e che fortunatamente molti dei nostri autori ci hanno permesso di autori e autrici ci hanno permesso di permettere a noi di riuscire a metterci il becco, ecco, in quelle sensazioni. Per oggi direi che è tutto. Grazie a Priscilla per la bella chiacchierata. Grazie a Giuseppe Mendicino, che è stato con noi al telefono per presentarci il suo ultimo libro, Nuto Revelli, Vite, Guerre e Libri, edito da Priuli e Verlucca nel 2019. E buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e da Priscilla. Buona serata. Ciao.